Eccoci qua, 10:02, Radio Iperico. Radio Iperico! Allora, in questo momento respiro, prendo una boccata di aria fresca perché questa è una mattina veramente, veramente movimentata. Vi abbiamo lasciati in compagnia della magnifica Bobina che vi ha accompagnati e accompagnate fino ad ora. E non eravamo qui, sì, non eravamo in radio e ci siamo arrivati proprio all'ultimo momento. Anzi, in questo momento sono da solo, poi verrò, diciamo, affiancato un po' più tardi, ma ho un attimo bisogno di, insomma, di bermi una bella camomilla, prima di entrare nel vivo di questa puntata. Questa puntata ha un sacco di cose di cui parlare, lo vedremo poi. Ci sono un paio di interventi, sicuramente, faremo quattro chiacchiere col nuovo neonato Circolo Culturale Libertario di Rimini, questo sicuramente. E poi avremo anche modo di fare una diretta, riguardante un evento un po' nefasto, cioè lo sgombero di Corsica 81 in quel di Firenze, avvenuto qualche giorno fa. Ormai purtroppo, queste sono storie che sentiamo sempre più spesso di questi tempi, e andremo anche un attimo a approfondire e vedere quelle che sono le progettualità in risposta a questo sgombero nell'imminente. Poi avremo anche qualcosa di aggiuntivo, anche un altro piccolo intervento di cui, vi parlerò tra un pochino, perché prima mettiamo un pochino di musica, eccoci. Nuovo qua con voi, sono le 10:06 di questa mattinata a dir poco particolare e come vi accennavo poco fa ci sarà anche un breve intervento che servirà un po' a lanciare un'iniziativa che ci sarà domenica 27 marzo 2022 alle 15 al Parco Caserme Rosse Bologna. in caso di maltempo presso la ex centrale di via Corticella 129 sarà un'assemblea metropolitana delle cittadine e dei cittadini contro l'allargamento del passante di mezzo per discutere collettivamente e in piazza il percorso dei prossimi mesi. Ora di cosa si tratti nello specifico preferirò parlarne insieme alla persona che interverrà che sarà sicuramente molto più chiara di me, ma direi di non perdere altro tempo Radio Iperico, sempre con te. Dopo questo breve jingle che ci piace tanto e che ci fa sentire il suono del Brindisi, vi do i contatti della radio di tutto quanto. Il numero da chiamare per la diretta, come al solito, ormai vi uscirà dalle orecchie, è il 351-09-34-193, ripeto 351-09-34-193, fatelo squillare questo telefono della radio anche con messaggini, sms, whatsapp o telegram, tutto quello che volete insomma. La mail invece è spazio.solebaleno@bruttocarattere.org, lo ripetiamo, spazio.solebaleno@bruttocarattere.org. È una zona che noi chiamiamo il confine della realtà. Il confine della realtà, 10 e 16 su Radio Iperico come ogni sabato mattina. Questa mattina parliamo sempre inevitabilmente di guerra, ma lo facciamo in una maniera un po' differente, cioè non entriamo nel vivo delle notizie e degli aggiornamenti dall'Ucraina, perché ci sembra di essere già abbastanza bombardati di notizie in questi giorni, poi casomai potremo fare degli approfondimenti e analizzare meglio tutte queste informazioni, questa mole di informazioni che ci passa attraverso l'informazione tradizionale. E quindi trattiamo argomenti diciamo un po' a latere. Da contropiano, 14 marzo, Pisa, armi invece di aiuti umanitari, i lavoratori rifiutano di caricare. Dall'aeroporto di Pisa, armi all'Ucraina mascherate da aiuti umanitari, i lavoratori rifiutano di caricare gli aerei. sabato 19 manifestazione convocata dall'USB all'aeroporto Galilei. Questa ci sembra assolutamente una buona notizia, ovviamente in un'ottica antimilitarista. Una notizia che ci arriva proprio nei giorni in cui, nello specifico il 16 marzo, la Camera dei Deputati ha approvato la larghissima maggioranza, 391 voti favorevoli su 421 presenti, 19 voti contrari, un ordine del giorno collegato al cosiddetto decreto Ucraina, proposto da Lega Nord e sottoscritto dai deputati di PD, Forza Italia, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, che impegna il governo ad avviare l'incremento delle spese per la difesa verso il traguardo del 2% del prodotto interno lordo. Nella parte dispositiva del testo approvato si legge come tale risultato dovrebbe essere raggiunto predisponendo un sentiero di aumento stabile nel tempo che garantisca al paese una capacità di deterrenza e protezione, mentre nell'immediato si debba agire per incrementare alla prima occasione utile il fondo per le esigenze di difesa nazionale. Ciò significherebbe, citando le cifre fornite dal Ministero della Difesa Guerini, mentre qui trovate la valutazione di spesa militare del nostro osservatorio Milex, passare dai circa 25 miliardi l'anno attuali, 68 milioni al giorno, ad almeno 38 miliardi l'anno, quindi 104 milioni al giorno. Nel corso della stessa seduta è stato anche approvato l'ordine del giorno a firma Gagliardi che chiede un incremento della spesa annuale complessiva del settore difesa in misura non inferiore al 3,5% del totale del bilancio finale dello Stato. Dalla voce delle lotte, 8 marzo, primi scioperi selvaggi in Russia per la caduta dei salari sotto la guerra. A Nizhnekamsk, Kazan, i lavoratori della fabbrica Gemont, per lo più immigrati turchi, hanno cominciato uno sciopero a gatto selvaggio al di fuori del controllo sindacale per i salari non pagati in seguito alla caduta del rublo. I padroni hanno immediatamente ceduto alla richiesta. Da Il Fatto Quotidiano, 16 marzo, guerra Russia-Ucraina, la nave della Marina Militare entra nel Mar Piccolo di Taranto. I pacifisti la prendono a sassate e urlano assassini. Assassini, lo hanno urlato più volte a Taranto i manifestanti che nel pomeriggio hanno contestato con lancio di pietre e bottiglie il rientro dell'unità navale carabiniere alla Marina Militare. I manifestanti hanno esposto anche uno striscione per esprimere la loro distanza da Putin e dalla NATO. La nave è transitata nel canale navigabile alle 14.45 verso il Mar Piccolo di Taranto, dove si trova la base navale. In uno dei bacini dell'arsenale militare nave carabiniere sarà sottoposta nei prossimi mesi a dei lavori di efficienza naviglio. Questa è una notizia che accogliamo anche con un certo piacere, devo dire la verità, perché comunque anche Radio Iperico, lo abbiamo sempre ribadito, è contro qualsiasi tipo di imperialismo, che venga dalla NATO, che venga dalla Russia, non ci importa, e la solidarietà va sempre verso i popoli. Da MSN, 9 marzo, bomba carta nell'ambasciata bielorussa a Roma. Per gli inquirenti si tratta di un gesto dimostrativo. Un'azione messa in atto in piena notte da mani al momento ignote. Un grosso petardo è stato lanciato nel giardino dell'ambasciata bielorussa a Roma. Una sorta di bomba carta è stata scaraventata oltre il muro di cinta della sede diplomatica in via delle Alpi Apuane, nella zona di Monte Sacro. E qui ecco, chiudiamo un po' le notizie cui vi accennavo poco fa, cioè che riguardano in qualche modo la guerra, anche se in maniera indiretta. Qua invece una cattiva notizia che avremo ben modo di approfondire dopo con un intervento specifico, come vi accennavo anche in apertura, da Corriere Fiorentino, 15 marzo, Firenze, sgombero del centro sociale di Viale Corsica, blitz della polizia, corteo di 100 persone. La zona è stata circondata dalle forze dell'ordine, un centinaio di persone ha protestato contro lo sgombero bloccando la circolazione. E invece una buona notizia, sempre su argomenti simili, da infestazioni.noblogs.org, 12 marzo, c'è un nuovo spazio in città, parliamo di Bologna. Oggi il gruppo di Bancarotta ha aperto lo spazio di via Fioravanti 12, spazio assegnato dal comune di Bologna con l'atto esclusivo, ma del quale non sono mai state consegnate le chiavi. Ci siamo, Bancarotta. Aprire la porta di questo spazio oggi si è rivelato l'unico modo rimasto per entrare nello spazio assegnatoci più di 3 anni fa, vincendo un avviso pubblico. Bene bene, salutiamo questo nuovo spazio nella nostra regione. Nostra si fa per dire. da contropiano, 14 marzo, arrivano i taser, pistole elettriche in 18 città. Da oggi la pistola elettrica taser entra ufficialmente a far parte dell'equipaggiamento in dotazione alle forze di polizia italiane. La ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, ha annunciato che 4.482 dispositivi a impulso elettrico finiranno nelle fondine di polizia, carabinieri e guardia di finanza nel territorio di 14 città metropolitane e nei capoluoghi Caserta, Brindisi, Reggio Emilia e Padova. A quel punto, nel giro di 2 mesi, l'uso del taser sarà esteso gradualmente ai reparti di tutta Italia. Veramente una schifezza questa qua, per noi di Radio Iperico. E nello specifico, stesso argomento, più nel locale, da Rimini Today, 14 marzo, arriva il taser per la Polizia di Stato, il nuovo dispositivo a Rimini entro l'estate. Gli agenti della questura riminese in corso di addestramento col dispositivo classificato come arma non letale che fa uso dell'elettricità per bloccare il malvivente. Non letale poi è da vedere, è veramente da vedere. Chi più ne ha più ne metta, da Rimini Today, sempre Rimini, 16 marzo, un lungomare videosorvegliato, arrivano 100 telecamere, nuovi occhi elettrici anche alla stazione. Il piano prevede anche l'entrata in funzione delle telecamere Street Tutor, che prevedono il posizionamento di 7 telecamere a 360 gradi e l'installazione di un'innovativa rete di varchi sui confini. Quindi con la scusa di combattere il degrado, questo fantomatico degrado, non si fa altro che entrare sempre di più in maniera assillante nella vita delle persone. E il controllo sociale galoppa sempre di più. Qua parliamo di vecchie nostalgie che ci piacciono poco. Da Il Tirreno, 10 marzo, Orbetello, via libera dal Consiglio Comunale, l'ex idroscalo avrà il nome di Balbo. La maggioranza approva la mozione, la minoranza lascia i lavori, ma l'ultima parola spetta alla prefetta. Quindi in Italia c'è chi vuole onorare lo squadrista assassino Italo Balbo e non solo Orbetello, infatti sentite qua. Da Avio News, 14 marzo, aereo dedicato ad Italo Balbo, interrogazione in Parlamento. Fa discutere l'iniziativa di intitolare uno degli aerei Airbus che compongono la flotta dello Stato italiano ad un gerarca fascista, l'aviatore Italo Balbo, quadrumviro della marcia su Roma già inquadrato nelle squadracce nere. Su questa decisione è stata annunciata la presentazione di un'interrogazione in Parlamento. Quindi ad Orbetello, dicevamo, non sono i soli a quanto pare. Addirittura alla memoria di Balbo è stato dedicato un aereo della flotta statale che scarrozza le alte cariche istituzionali italiane in giro per il mondo. E le interpellanze in Parlamento delle sinistre legalitarie, che si dicono scandalizzate, ci fanno sorridere sinceramente nella loro ingenuità. Questo per noi è antifascismo pantofolaio o da cartolina, come ci piace definirlo. L'attitudine autoritaria è insita nello Stato e quindi è naturale che i gerarchi fascisti trovino degli estimatori proprio nelle istituzioni di oggi. E non c'è limite al peggio, perché sentite un po', da ADN Cronos, 14 marzo, aerei di Stato, via il nome di Italo Balbo, quindi subito una smentita, gli aerei della flotta di Stato avranno solo gli emblemi della Forza Armata di appartenenza, le insegne della Repubblica e le sigle internazionali di riconoscimento, quindi subito una marcia indietro dopo che si è venuto a sapere, veramente tanta ipocrisia vediamo qui. Sempre di fascismi si parla, ma molto più attuali e concreti. Da Fanpage, 10 marzo, aggressione di estrema destra al liceo Mamiani. Il collettivo, sono venuti a provocare. Il racconto degli studenti del collettivo, abbiamo reagito, li abbiamo cacciati, ma un ragazzo di 16 anni ha ricevuto un pugno in faccia e gli ha spaccato il labbro e gli ha lasciato diversi lividi sul volto. Comunque per noi è sempre bello quando gli studenti cacciano i fascisti dalle scuole. Da Il Gazzettino, 12 marzo, questa è una notizia un po' più fantasiosa. Francia, un uovo in testa al candidato francese di estrema destra, Zemmour. Éric Zemmour, candidato dell'estrema destra francese, è stato colpito alla testa da un uovo durante una tappa della sua campagna elettorale a Moissac, in Occitania. L'aggressore, che è stato arrestato, è padre di un disabile e ha agito a titolo personale, ha detto un gendarme all'emittente BFM TV. Il candidato di estrema destra alle presidenziali francesi di aprile aveva provocato molte polemiche a gennaio, dichiarando che è ora di finirla con l'ossessione dell'inclusione dei bambini disabili. E che dire, andiamo verso Pasqua e quindi fioccano le uova, e a noi fa un certo piacere in questo senso. Ed ora, per sdrammatizzare un po' da tutto quello che ci circonda, un paio di notizie veramente esilaranti, ve le passiamo così come ci sono arrivate, anche per farci quattro risate. Da meteogiornale.it, 5 marzo, come mai gli USA investono 770 miliardi di dollari per la difesa UFO? Il Pentagono istituirà nuova agenzia. Nasce una nuova agenzia di difesa nel Pentagono. La spesa stanziata è simile a 20 anni di guerra in Afghanistan e pone molte domande che non trovano risposte certe. Sicuramente le risposte certe non le sappiamo noi, ma veramente ci fa sorridere questa cosa. Dalla Repubblica, 16 marzo, Tyson, l'ultima trovata, vende caramelle alla cannabis a forma di orecchio di Holyfield, l'ex campione del mondo, con una delle sue aziende ha deciso di produrre e mettere sul mercato pasticche gommose a base di marijuana dalla curiosa sagoma, in ricordo della sfida per il titolo mondiale dei massimi, in cui strappò una parte di lobo all'avversario e la sputò sul ring. Ecco, nonostante il personaggio grottesco che abbiamo appena citato e da cui prendiamo anche le distanze da un punto di vista ideologico, ricordiamo con questa notizia che oggi c'è l'appuntamento della box popolare a Cesena allo skate park, ore 14, mi raccomando non mancate, ma comunque ne parliamo anche dopo. Mentre la Turchia continua a bombardare i villaggi curdi nel silenzio globale, l'agente del posto ha riferito che i missili turchi hanno colpito domenica un certo numero di case di civili nel villaggio di Iruri, nella provincia montuosa di Dukok, nel Kurdistan iracheno. Ecco, vogliamo ricordare questa mattina che il 18 marzo 2019, quindi ieri era l'anniversario di questo fatto, cadeva l'anarchico e antifascista Lorenzo Orsetti, detto Orso, Tekoser, ucciso nei pressi del confine siriano con l'Iraq, combattente contro lo Stato Islamico e a fianco della milizia curda Unità di Protezione Popolare JPG in Siria. E vogliamo mandare come minimo una canzone, che è quella che passiamo ora, con anche la partecipazione della compagna Eddie, che legge le parole del suo testamento, testamento di Orso, e poi forse anche qualcosa d'altro più tardi, ma ora abbiamo piacere di mandare questa, eccola qua. Ciao, se state leggendo questo messaggio, è segno che non sono più a questo mondo. Beh, non rattristatevi più di tanto, mi sta bene così. Non ho rimpianti. Sono morto facendo quel che ritenevo più giusto, difendendo i più deboli e rimanendo fedele ai miei ideali di giustizia, eguaglianza e libertà. Quindi, nonostante questa prematura di partita, la mia vita resta comunque un successo e sono quasi certo che me ne sono andato con il sorriso sulle labbra. Non avrei potuto chiedere di meglio. Vi auguro tutto il bene possibile e spero che anche voi un giorno, se non l'avete già fatto, decidiate di dare la vita per il prossimo, perché solo così si cambia il mondo. Solo sconfiggendo l'individualismo e l'egoismo in ciascuno di noi si può fare la differenza. Sono tempi difficili, lo so, ma non cedete alla rassegnazione, non abbandonate la speranza, mai. Neppure per un attimo. Anche quando tutto sembra perduto e i mali che affliggono l'uomo e la terra sembrano insormontabili, cercate di trovare la forza e di infonderla nei vostri compagni. È proprio nei momenti più bui che la vostra luce serve. E ricordate sempre che ogni tempesta comincia con una singola goccia. Cercate di essere voi quella goccia. Vi amo tutti, spero farete tesoro di queste parole. Serkeftin, Orso, Tekoser, Lorenzo. chi si arrapa con i Marines, perché noi ammazziamo tutto quello che vediamo. E per dimostrargli il nostro apprezzamento per averci dato tanto potere, noi gli riempiamo il cielo di anime sempre fresche. Signorine, sono stato chiaro? Sì, oh, sì, signore! Non ho sentito niente! Sì, oh, sì, signore! Anche in questi tempi bui, ogni sabato mattina, Radio Iperico è al tuo fianco. I signori del potere sono seduti a parlare per decidere il futuro che ci devono dare. Un futuro di guerra, di odio e di dolore, un futuro in cui la vita non ha più nessun valore. Parla di pace mentre vendono armi, morte e distruzione, ciò che vogliono darmi. Non importa se a pagare sono sempre gli stessi, ormai ero deciso, non ti scendo a compromessi. Radio Iperico dichiara guerra alla guerra. Si oppone al militarismo e ad ogni forma di imperialismo. E sogna la solidarietà tra i popoli sfruttati. Dici che combatti per poterci liberare, ma la tua violenza ci fa solo vomitare. Per farla finita una volta per tutte con governi ed eserciti. E perciò noi gridiamo, viva Topoli, solo tu, Topoli, puoi capire, Topoli. Mille, mille sogni di un bambino, ah, ah, ah. Noi gridiamo in cuore, viva e viva Orazzi, sì. Topoli, Topoli, viva Topoli. Viva Topolin, sono arrivata anch'io alle 10.34 di questo sabato mattina un po' frenetico, e mentre il mio compagno di scorribande si beve tranquillamente la sua camomilla, io vi do tutti i contatti nostri per mandarci subito dei saluti in diretta e raccontarci un po' come va. Potete farlo al 351-09-34-193, lo ripeto, 351-09-34-193, sono ben accetti SMS, WhatsApp e Telegram. Potete anche mandarci una mail invece a spazio.solebaleno@bruttocarattere.org, ripeto anche questo, spazio.solebaleno@bruttocarattere.org, ma mi sembra proprio che ora sia il momento tanto atteso di Clamoroso. Clamoroso! Clamoroso, la rubrica di barzellette sulle forze dell'ordine che aspettavi. Tre digosini di Cesena, bersagliati da tutto l'odio del mondo e ormai stanchi della propria vita noiosa, decidono di mollare tutto ed intripparsi con il buddismo. Dopo diversi viaggi in Oriente, sono pronti una volta per tutte ad alzare il tiro, e si recano sulle montagne del Tibet per una lunga meditazione. Dopo un lungo pellegrinaggio, giungono finalmente ad una grotta oscura. Così, siedono in silenzio a meditare ad occhi chiusi. Dopo 2 anni, il primo digosino apre gli occhi ed esclama: ma guarda, ha iniziato a piovere. Poi chiude gli occhi e via, la meditazione continua. Dopo altri 3 anni, il secondo digosino apre gli occhi ed esclama: toh, ha iniziato a nevicare. Poi chiude gli occhi e via, la meditazione continua. Dopo altri 4 anni, il terzo digosino apre gli occhi ed esclama: però raga, se siamo venuti qui per fare del casino possiamo anche tornarcene a casa. Tre medici della polizia scientifica, grandi luminari nel settore, stanno svolgendo delle analisi su dei residui organici. Ad un certo punto, vedono dalla finestra dell'ambulatorio della stazione di polizia un vecchietto che cammina tutto storto e dondolante. Preso dalla curiosità, il primo medico esclama: a mio modesto parere, quel poveretto ha un difetto posturale che deriva dall'infiammazione del nervo sciatico. Il secondo medico, pensieroso, ribatte: caro collega, a mio avviso ti sbagli, si tratta certamente di artrosi degenerativa. Il terzo medico, poco convinto, aggiunge: per me è arteriosclerosi. Comunque, perché non andiamo a chiedere direttamente all'interessato? Così ci toglieremo ogni dubbio. Allora i tre si recano fuori dalla stazione di polizia, si avvicinano al vecchietto, e lo interpellano. Ci perdoni signore. Siamo tre medici della scientifica. Abbiamo associato tre diagnosi diverse al suo modo di camminare. Io credo che si tratti di arteriosclerosi. I miei colleghi invece parlano di artrosi o sciatica. Il vecchietto li guarda, poi beffardo risponde. Allora ci siamo sbagliati in quattro. Anche io credevo fosse una scoreggina. Invece mi sono cagato addosso. Peso!